Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di due libri scritti da due giornaliste italiane, due nomi noti. La prima è Chiara Beria d'Argentina, attualmente editorialista della Stampa, che ha pubblicato con Mondadori Di Profilo, ritratti di italiani, 180 pagine, 18,50 euro. Nel libro troviamo raccolte le rubriche del sabato sulla Stampa, nelle quali appunto Beria d'Argentina presenta dei personaggi insoliti che contribuiscono a far conoscere meglio l'Italia e la sua inesauribile ricchezza nascosta di energie, entusiasmi, capacità e passioni. Beria d'Argentina presenta così questi personaggi: sono voci dissonanti, scrive, persone, donne e uomini, ingiustamente poco conosciute alle cronache, persino allergiche per carattere o mestiere a facili ribalte, e le vuole cogliere, spiega l'autore, sotto una luce diversa, lontano dai riflettori di una società che troppo spesso, a suo parere, crea false star e miti imbarazzanti. E ne troviamo 61 di questi personaggi, di tutti i generi appunto, e a chiusura una figura particolarmente importante per l'autrice, cioè il padre, il celebre magistrato Adolfo Beria d'Argentina, un ritratto questo scritto con misura e discrezione in occasione del decennale della morte del grande magistrato. L'altra giornalista è Stella Pende, inviata di Mediaset, che pubblica Confessione Reporter, quello che non ho mai scritto, l'editore Ponte alle Grazie, 294 pagine, 16,50 euro. La giornalista qui riprende 20 suoi reportage da tutto il mondo, arricchendo ogni puntata con un prima o con un dopo, una sorta di aggiornamento di ciò che era stato scritto. Allora, per esempio, nel prima di Gheddafi, una sorta di backstage di questa impresa, intervistare Gheddafi, vengono descritte tutte le difficoltà, ma anche le ritualità per ottenere l'incontro col dittatore libico. Oppure, a proposito di un reportage da San Vittore, troviamo un dopo molto impressionante con tutti i numeri della galera. Il libro dunque risulta come una testimonianza, dice l'autrice, della sua passione non tanto per il giornalismo quanto proprio per il reportage, perché, e scrive e Pende citando il grande Richard Kapuscinski, è proprio il reportage è il futuro del giornalismo. Anzi, scriveva Kapuscinski, l'unica linfa del giornalismo. Solo quel cronista coraggioso e visionario, capace di raccontare meraviglie di uomini e di terre, conquisterà l'anima dei giovani e di chiunque rifiuta il bombardamento delle notizie. Passiamo adesso a una grande mostra che è in corso a Milano, alla Pinacoteca di Brera, è dedicata al pittore ottocentesco Francesco Hayez, il romanticismo tra Manzoni e Verdi, e va avanti fino al 25 settembre. La mostra è curata da Fernando Mazzocca, Isabella Marelli e Sandrina Bandera, il catalogo è pubblicato da Schirà e, ripeto, una mostra importante non solo per accostarsi a questo grande protagonista dell'arte dell'Ottocento, ma soprattutto al clima culturale che è alla base del processo risorgimentale e soprattutto al clima culturale di Milano. Si parla infatti non solo di Hayez ma anche di Manzoni e di Verdi, e cioè la mostra vuole ricostituire un po' l'ambiente di una città che è stato uno dei crogioli della cultura risorgimentale e che ha dato un grande impulso al movimento delle idee che sfociò poi appunto nel processo di unificazione nazionale. Ma su questa mostra sentiamo un parere di Marco Carminati. Ciao Marco. Ciao Salvatore. Sì, la mostra di Hayez nella Milano di Manzoni e Verdi, che è allestita in questi mesi nella Pinacoteca di Brera, è davvero un campionario di volti, di personaggi che hanno partecipato alla grande epopea risorgimentale, magari non in primo piano, ma naturalmente facendo parte di quelle famiglie, di quelle personalità che appoggiarono culturalmente il movimento di unità nazionale. Uno dei quadri più singolari è dedicato a Massimo D'Azeglio, questa figura di nobile piemontese che si trova tra l'altro quadro nella sezione dedicata alla famiglia Manzoni. Perché D'Azeglio si trova in mezzo ai Manzoni? Ma semplicemente perché D'Azeglio aveva sposato la figlia di Alessandro Manzoni, cioè Giulia Manzoni, in prime nozze. In seconde nozze, era stato vedovo, si sposa Luisa Blondel, che era la cugina di Enrichetta Blondel, cioè della prima moglie di Manzoni. Insomma, il nostro D'Azeglio rimase davvero in casa. Il quadro è molto importante, molto singolare, realizzato da Francesco Hayez, non con il modello davanti, ma attraverso una fotografia che D'Azeglio si era fatto fare a Parigi e che scrive in una lettera fatta in un momento in cui era incavolato nero. Infatti noi notiamo una certa serietà nella posa del personaggio, incavolato nero perché erano successe appunto delle vicende politiche che a lui non andavano a genio nel 1859. D'Azeglio, tra l'altro, era un pittore dilettante, anche lui, quindi poteva capire molto bene la qualità severa di questo dipinto. Era un pittore di paesaggi, ha lasciato una ricchissima produzione di opere d'arte, e in questo dipinto è ritratto appunto come una personalità non artistica. È molto severo il suo sguardo, è molto posata la sua la sua posa, appunto. Lo vediamo nelle vesti che lui probabilmente preferiva, quelle di diplomatico, perché noi sappiamo che questo signore, al momento dell'Unità d'Italia, divenne, pensate, il presidente della Lombardia, il predecessore del nostro Roberto Formigoni. E questo quadro ne fissa in tutta la sua dignità il suo ruolo molto, molto importante. In effetti, quello di D'Azeglio è uno dei più bei ritratti presenti in mostra. Allora vi segnalo il libro di Paolo Pinto, Massimo D'Azeglio, Il sogno di un'Italia diversa, pubblicato da Solfanelli, 126 pagine, 10 euro. D'Azeglio è uno dei padri fondatori certamente più appartati e dimenticati dell'Unità Nazionale, anche se è stato un protagonista importante del Risorgimento dal punto di vista politico, ma anche letterario e artistico. D'Azeglio stesso fu infatti scrittore e ha scritto due libri importanti per l'epoca, cioè I miei ricordi e il famoso Ettore Fieramosca, e poi fu un pittore. Era un conservatore di polso, come lo definisce qui l'autore, e il quale sottolinea ovviamente l'impegno politico di D'Azeglio, che culminò nella presidenza del Consiglio dei Ministri, assunto in un momento disastroso, delicatissimo per il Regno di Sardegna, cioè dopo la disfatta della prima guerra di indipendenza. E sarà proprio il presidente del Consiglio D'Azeglio che farà entrare al governo, nonostante non ne fosse convintissimo, nonostante il re fosse contrarissimo, che farà entrare, dicevo, al governo il giovane Cavour, non troppo giovane per l'età, che di lì a poco diventerà presidente del Consiglio lui stesso e l'artefice dell'Unità Nazionale, sempre rimanendo un po' in rotta con D'Azeglio. E infatti, come si spiega anche in questo libro, nasce da questa la irritazione per un importante incarico che Cavour dà a D'Azeglio proprio a Parigi. D'Azeglio lo svolge, ma poi Cavour farà completamente di testa sua. D'Azeglio resterà legato al re, scettico sulle prospettive che vengono animate proprio da Cavour di unificare l'Italia intorno al regno di Sardegna, e quando appunto questo sviluppo si concluderà con la seconda guerra di indipendenza, D'Azeglio verrà, come ricordava Marco Carminati, nominato governatore della Lombardia. Sentiamo dalle righe di questo libro che cosa fece quando D'Azeglio dovette governare questa regione. A Milano il nuovo governatore non si risparmia. Le prime cure sono rivolte all'organizzazione della macchina amministrativa, poi entra nel merito dei problemi. Il primo e più drammatico è quello relativo all'ordine pubblico. Come sempre avviene in tutti i passaggi storici radicali, anche nella civilissima Milano gli avventurieri, i traffichini, i malavitosi stanno avendo la meglio. Quando si fa sera, le strade della città sono quasi deserte per la paura di furti e rapine. D'Azeglio riorganizza subito il corpo dei carabinieri e la Guardia Nazionale e in soli 3 mesi sconfigge la criminalità. Più difficile da risolvere è il problema della crisi economica. La Lombardia è una regione fiorente, ma sono cambiate le basi stesse dell'economia, che deve fare i conti ora, da un lato con le nuove regole del capitalismo e dall'altro con i problemi drammatici di una classe lavoratrice che coltiva la speranza di un'emancipazione sociale. E di D'Azeglio, Ettore Fieramosca, è pubblicato da Rizzoli, 310 pagine, 10,50 euro. Un bel libro sul Risorgimento è quello così titolato Il Risorgimento, sottotitolo Personaggi, eventi, idee e battaglie, di Cosimo Ceccuti. È pubblicato dalle Lettere, 240 pagine, 38 euro. Questa è una sintesi molto approfondita ma anche ampiamente illustrata di quel periodo. Troviamo testi, ma soprattutto quadri, illustrazioni, vignette, documenti, carte geografiche. Insomma, un libro che riassume molto bene il processo dell'unificazione nazionale, ripercorrendo tutti gli eventi principali che qui troviamo modo di ricostruire e di riconnettere. Insomma, un libro che non dovrebbe mancare nelle famiglie, soprattutto quest'anno, soprattutto nelle tante famiglie che stanno in questo periodo esponendo il tricolore. Un personaggio risorgimentale che avrebbe fatto carriera in una maniera molto particolare e si sarebbe affermato in una professione quasi completamente nuova per i tempi è Eugenio Torelli Violier, il fondatore del Corriere della Sera, la cui vita viene ricostruita nel libro di un inviato del Corriere della Sera, cioè Massimo Nava. Il libro si intitola Il Garibaldino, bollettino che fece il Corriere della Sera, pubblicato da Rizzoli, 288 pagine, 19,50 euro. Torelli era nato a Napoli il 26 marzo del 1842, quindi era giovanissimo quando si schierò, lui, figlio di un avvocato napoletano liberale, con Garibaldi. Avrebbe vissuto momenti difficili, rischiato anche la vita, e fino a entrare in contatto in quegli anni, in quei mesi, anzi, con Alessandro Dumas, che, come ricorderete, seguiva Garibaldi e al quale lo stesso Garibaldi aveva dato l'incarico di seguire un giornale importante, cioè l'Indipendente. E fu l'Indipendente che a un certo punto diede la possibilità a Torelli di andare a Parigi, sempre al seguito di Dumas, e naturalmente qui di conoscere un mondo completamente diverso e soprattutto un altro modo di fare il giornalismo. Nel 64 Torelli riceve la proposta di tornare in Italia, di andare a Milano come direttore di alcune riviste dell'editore Edoardo Sonzogno, e da lì gli nasce il desiderio di pubblicare un nuovo giornale che nascerà nel 1876, appunto con il Corriere della Sera, e una creazione che sorprenderà tutti per l'immediato successo, come spiegano queste righe del libro. Il Corriere progrediva nelle vendite e l'interesse del pubblico cresceva. Piccoli numeri, ma significativi del fatto che la borghesia intellettuale milanese e i ceti imprenditoriali avessero apprezzato la novità e probabilmente ne avvertissero senza saperlo il bisogno. Il successo, da tutti imprevisto, cominciò a suscitare invidie e gelosie. L'euforia dei primi giorni era destinata a durare pochissimo. Con pochi soldi, una redazione improvvisata e una sede meno agevole di una bottega, Eugenio Torelli Violier era diventato la mosca bianca del giornalismo milanese. Un tipo che era riuscito a cavarsela praticamente da solo e con pochi mezzi, e a rompere schemi e luoghi comuni, senza capitali e senza editori. Stava dando il filo da torcere a testate radicate nel paese e a giornalisti ben più famosi di lui. E il Corriere era già diventato argomento di conversazione e interesse negli ambienti importanti della città. E a questo punto... Il confettino. Concludiamo con una domanda che certo ci angustia. Si può leggere ai conigli? Questo è il titolo del libro di Andrea Weine von Königsglöw, pubblicato dal Castoro, 9 euro, e tradotto da Loredana Baldinucci. Naturalmente non troviamo qua solo conigli, ma anche canguri e delfini, civette e ippopotami, e una conclusione assolutamente confortante. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso passiamo alla narrativa, in particolare alla narrativa americana. Parliamo allora di un libro che è stato un po' al centro delle polemiche, dei dibattiti di questi ultimi mesi, salutato comunque a capolavoro da molti critici e criticato da molti altri. È il libro di Jonathan Franzen, Libertà, pubblicato da Einaudi, 626 pagine, 22 euro, tradotto da Silvia Pareschi. E Franzen è certamente uno dei maggiori scrittori americani contemporanei e ha ottenuto un successo planetario circa 10 anni fa con il libro Le Correzioni. Dopo un così lungo periodo torna Franzen con un altro grande romanzo americano, è salutato da molti come un capolavoro, anche se, ripeto, è stato molto discusso, soprattutto in Italia. Per esempio, ha fatto scalpore qualche settimana fa la notevole freddezza con la quale è stato accolto proprio sul Sole 24 Ore da Tim Parks e Nicola Lagioia, che hanno messo in discussione il valore letterario di quest'opera. Io non mi addentro nella critica letteraria, ma mi limito a sottolineare che certamente il libro è un romanzo appassionante, ancorché aggrappato a una storia relativamente esile, quasi se non banale, ordinaria, quella di una famiglia medio borghese, naturalmente americana, turbata da molti velleitarismi, tradimenti, rivolte, insoddisfazioni sessuali, eccetera. E la famiglia dei Berglund, che ha a capo Walter, un apparentemente incolore ambientalista, forse nato denatalista, che soffocherà poi nelle spire di un autentico imbroglio organizzato per sfruttare giacimenti di carbone e devastare territori incontaminati con l'alibi di salvare un uccello di passo, la misteriosa dendroica cerulea, che un miliardario non troppo stravagante vuol salvaguardare a tutti i costi. Walter scoprirà l'imbroglio, perderà il posto per la franchezza con la quale affronta la situazione, sfascerà il proprio matrimonio con un'altra figura relativamente incolore, una ex campionessa universitaria di basket che è divorata da un amore impossibile con l'ex migliore amico del marito e dalla venerazione per i figli, soprattutto per il maschio, che a sua volta tradirà gli ideali democratici tradizionali della famiglia per diventare un rampantissimo giovane repubblicano che pensa solo a fare soldi e ci riuscirà con un traffico stranissimo e con un una bella dose di imbrogli che si svolge sullo sfondo della guerra in Iraq. Impossibile addentrarsi in tutte le ramificazioni della trama, ma perché il titolo Libertà? E perché probabilmente è difficile sfuggire, se non al destino, certamente alle passioni, agli odi, ai sentimenti che spesso rendono così difficili le nostre scelte, le nostre vite. C'è anche un polemico risvolto politico, per esempio quando Walter se la prende con la libertà e ci spiega la differenza che vede tra gli americani e gli europei, che descrive in questo modo. Il motivo per cui non si può abbattere il sistema in questo paese, disse Walter, è proprio la libertà. Il motivo per cui in Europa il libero mercato è temperato dal socialismo è che laggiù non sono così attaccati alle libertà personali. Hanno pure un tasso di crescita demografica inferiore, anche a parità di livello di reddito. Insomma, nel complesso, gli europei sono più razionali e in questo paese il dibattito sui diritti non è razionale. Si svolge sul piano dell'emotività, dei risentimenti di classe, ed è per questo che la destra ha buon gioco a sfruttarlo. In una intervista recente a Le Monde, lo stesso autore ha spiegato che cosa significa, a suo parere, innovare in letteratura. E ha detto: per me fare qualcosa di nuovo per il romanzo non significa sviluppare una forma che non sarebbe stata mai vista sul terreno prima, ma significa cercare di cogliere come persona e come cittadino ciò che succede nel mondo di oggi e farlo in una maniera comprensibile e coerente. E Franzen cerca di raggiungere questo obiettivo partendo dall'America del dopo 11 settembre, lui che aveva pubblicato Le Correzioni, il suo grande successo precedente, pochi giorni prima proprio di quella tragedia. Che cosa cercare allora in quest'autore? Una descrizione certamente maniacale, iperrealista della società americana, delle sue idiosincrasie ideologiche, si tratti degli ambientalisti esaltati o dei neoconservatori altrettanto esaltati? Si può cercare uno scavo nelle difficoltà a conciliare le proprie pulsioni con la vita degli altri? Si può cercare e trovare una dolente e comprensiva descrizione dell'eterno scontro tra le generazioni? Collocandolo tra i 100 personaggi più influenti del mondo, poche settimane fa sul Time Michael Lewis ha così spiegato le ragioni del successo di Franzen, che ritrovo alla base di questo libro, e scriveva Lewis: la ragione per la quale i libri di Franzen raccolgono tanta partecipazione è che essi ricordano ai lettori che essi stessi lettori possono essere visti in una maniera che è molto differente da come essi sono solitamente visti, anche dai romanzieri. Egli risveglia in loro questa coscienza di quanto siano vulnerabili alla esposizione. Un altro mostro sacro della letteratura americana, più anziano questo di Franzen, è Thomas Pynchon, autore di libri chilometrici e in parte astrusi, che ci sorprende ora con una sorta di divertissement, vizio di forma, è pubblicato anche questo da Einaudi, sono solo, per le dimensioni solite dell'autore, 470 pagine, 20 euro ed è tradotto da Massimo Bocchiola. In America il libro è stato definito una lettura da spiaggia, e si tratta infatti di un vero e proprio noir ambientato nella California della fine degli anni 60, in particolare nell'ambiente dei surfisti. C'è molta cultura hippie, molto fumo naturalmente, una trama di cui si rischia spesso di perdere i fili, ma la stoffa del romanziere certo non tradisce, e ad alcuni critici questo libro è apparso una sorta di autoparodia dello scrittore. La storia ruota intorno a uno scalcinato detective privato, Doc Sportello, una cui ex, che ora si accompagna un ricco operatore immobiliare, scompare all'improvviso dopo aver chiesto al suo amico di indagare proprio sulla sparizione del maturo e ricco amante. Di qui una serie di colpi di scena, un misterioso vascello che arriva dal sud-est asiatico, tutti elementi che rendono quasi visivamente i tratti della controcultura degli anni 60 e 70 alla quale spesso Pynchon si è ispirato. Prima di salutarci segnalo una nuova iniziativa che avrà luogo il 27, il 28 e il 29 maggio a Verbania sul Lago Maggiore, dove il 27 maggio passa la tappa del Giro d'Italia. Questa iniziativa si chiama Bibliosport ed è la rassegna internazionale del libro di sport, che è un'iniziativa di 6 edizioni. In questa occasione vengono presentati alcuni libri di sport, per esempio sabato si parlerà del libro Olimpiadi Torino 2006 di Giorgio Veglino, pubblicato dall'edizione del Sole 24 Ore, e domenica prossima si parlerà del libro Reti e Parabole, discorsi, trasporto e televisione di Darwin Pastorin e Giorgio Simonelli, pubblicato da Mursia. E a questo punto ringrazio Claudia Carusi in redazione e Mauro De Angeli in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Appuntamento a domenica prossima, buona settimana a tutti.